a voi eroi, non dite siamo rassegnati, non pensate che non c'è alternativa, non accettate di votare politici di qua, di là, di sopra, di sotto, non mi interessa come la pensate, che su queste robe non vi diano delle risposte concrete, che dicano in quanti mesi tagliano che cosa riallocando, altrimenti la vostra serranda, il vostro rischio, ciò che garantite ai vostri dipendenti, il futuro dei loro figli, oltre che dei vostri innanzitutto, sarà sempre più a rischio in questo paese, non perché governa male la destra, governa male la sinistra, ma perché siamo rassegnati a un'idea di organizzazione dello Stato, che è un'idea sbagliata, perché ci priva del presente e del futuro. Perché dovete rassegnarvi? Ditemelo, c'è una buona ragione per rassegnarsi? Che ve ne frega se viene prima con chi scopa la notte questo o quello? Quello che vi devono dare per prima cosa è la fierezza del presente e del futuro. Si chiama lavoro, si chiama impresa, si chiama battersi per avere cose migliori pagando il giusto. Oltre la frontiera per tutti gli altri è possibile. La domanda che vi faccio è: perché da noi no?